Salve, questo è un esempio di podcasting. Spero che nel corso dell'anno scolastico anche voi possiate realizzarne qualcuno. In questo nostro primo incontro voglio illustrarvi gli obiettivi didattici del corso di matematica. 1. Saper risolvere equazioni ed disequazioni algebriche di secondo grado, intere e fratte. 2. Conoscere le equazioni, le proprietà e le formule principali della retta e delle coniche nel piano cartesiano. 3. Conoscere il significato di funzione reale di variabile reale e le sue caratteristiche. 4. Conoscere la funzione esponenziale e la funzione logaritmica. 5. Conoscere e saper applicare le proprietà dei logaritmi. 6. Saper risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 7. Saper risolvere problemi in ambito matematico-finanziario. 8. Saper utilizzare il foglio elettronico. 9. Saper ricercare e presentare informazioni.